ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Fausto Paravidino legge «Ho servito il re d'Inghilterra» di Bumil Rabal, traduzione di Sergio Corduas. State attenti a quello che adesso vi dico. Una volta era annunciato un cliente e il capo ci teneva e si dava da fare. 10-20 volte attraversò il suo locale sulla sedia a rotelle e le cose non stavano mai come desiderava. La visita annunciata era di 3 persone, ne vennero però soltanto 2, sebbene fosse apparecchiato per 3. E in effetti per tutta la notte servimmo sempre anche per la terza persona, come se ogni attimo dovesse venire, come se fosse un cliente invisibile che qui sedeva, camminava, passeggiava per il giardino, si dondolava sull'altalena e così via. E dapprima un bel macchinone portò una dama, con la quale il capo parlava francese, e Zdenek pure. Poi arrivò un altro macchinone, verso le 9 di sera, e ne discese il presidente in persona, che io riconobbi subito, e il capo lo chiamava Vostra Eccellenza. E il presidente cenò con quella bella francese che era giunta a Praga in aereo, e il signor presidente era come se fosse cambiato, in qualche modo ringiovanito. Rideva, era galante, beveva champagne e poi cognac, e quando fu ben allegro si trasferirono nella stanzetta con i mobili Biedermeier e i fiori, e il signor presidente fece sedere quella beltà accanto a sé e le baciava le mani e poi le baciò la spalla. Aveva le braccia nude, portava un vestito da sera quella bella donna, e chiacchieravano di letteratura, e di punto in bianco incominciarono a ridere. Il signor presidente raccontava con la dama qualcosa nell'orecchio e lei rideva crepapelle. Anche il signor presidente rideva tanto da piegarsi in due, e lui stesso versava lo champagne, e poi tesero i bicchieri, li reggevano per il gambo e li facevano tintinnare allegramente e si guardavano negli occhi, e poi bevevano con dolcezza. Quella dama poi stese con leggerezza il signor presidente sullo schienale della poltrona e lei stessa lo baciò lungamente. Un lungo bacio. Il signor presidente chiuse gli occhi e lei gli accarezzava i fianchi, e anche lui a lei. Vidi l'anello di brillanti del presidente che sfolgorava sulle cosce di quella bellezza, e poi a un tratto, come se si fosse svegliato, ora fu lui a chinarsi sopra quella bellezza e la guardava negli occhi, ed era lui che la baciava, e per un momento ambedue restarono immobili, in un abbraccio. Quando si risvegliarono, il presidente ebbe un sospiro profondo, sospirò con dolcezza e anche la dama sospirò, tanto che la treccina sui capelli si sciolse e le scese sulla fronte e si alzarono. Si tenevano per mano come i bambini quando vogliono fare giro giro tondo, e a un tratto, tenendosi per mano, corsero alla porta e uscirono fuori. Continuavano a tenersi per mano, saltellavano e ruzzavano per i sentieri dai quali si sentiva il riso chiaro e il nitrito allegro del presidente, e io continuavo a non conciliarmi col ritratto del signor presidente sui francobolli e nei luoghi pubblici. Avevo sempre avuto l'impressione che il signor presidente cose così non le fa, che questo non si confà al signor presidente, eppure anche lui era come gli altri ricchi, come me, come Zdenek. Ora stavano correndo per il giardino inondato dalla luce della luna, e giusto quel pomeriggio avevamo portato i covoni di fieno già secco, e vedevo come il vestito bianco di quella bellezza e lo sparato bianco inamidato del signor presidente e i suoi polsini bianchi come stoviglie di porcellana svolazzavano e striavano nella notte qua e là da covone a covone, come il signor presidente corse davanti a quella veste bianca, poi la prese e la sollevò con leggerezza. Vedeva i suoi polsini sollevare quell'abito bianco, la portava, la rigirava, i polsini reggevano con la veste bianca come se l'avesse appena pescata da un fiume, oppure come quando una mamma porta a letto un bambino nella camicetta bianca da notte. Così il signor presidente la portava nelle profondità del nostro giardino, sotto gli alberi centenari, per poi correrne fuori con lei e deporla su un covone di fieno. Ma quell'abito gli scivolava via e correva oltre, e il presidente dietro, sempre ambedue, ma l'abito bianco si rialzava sempre e scappava via finché lei cadde su un covone e il signor presidente sopra di lei. Vidi coi suoi polsini e poi vidi come quel vestito bianco si rimpiccioliva, come i polsini bianchi tiravano sulla veste bianca, e poi la sistemavano accanto, così come noi sistemavamo i fiori di papavero, e poi fu silenzio nel giardino dell'hotel La Quiete. E smisi di guardare, così come smise di guardare anche il capo. Chiuse le tendine, e Zdenek guardava in terra, e la cameriera che stava in piedi sulla scala in un abitino nero, e di lei si vedeva soltanto il grembiule bianco e una luce bianca come un frontino in quei suoi folti capelli, anche lei guardava in terra. E tutti evitavamo di guardare, ma tutti eravamo eccitati, come se lì, su quel covone di fieno rivoltato e smosso, giacessimo noi, con quella bella dama che per questa scena nel fieno era venuta in aeroplano fin da Parigi, come se tutto ciò stesse succedendo a noi. E soprattutto noi eravamo gli unici a partecipare a questa festa amorosa offertaci dal destino, il quale tuttavia non chiede per questo più di quel che richiede a un prete il segreto della confessione. Dopo mezzanotte il capo mi mandò a portare nella casina dei bambini una brocca di cristallo con la crema fredda, una pagnotta fresca e una forma di burro dentro foglie di vite. E io portavo il cestino e tremavo. Sfioravo i covoni di fieno che erano del tutto rivoltati. Dei letti matrimoniali erano quei covoni. Feci un inchino a quel fieno, non resistetti, e presi un pugno di fieno, lo annusai. Poi svoltai verso i trepini argentei e da lì vedevo la finestrella accesa, e quando arrivai vidi come in quella casina dei bambini, là dove erano appesi tamburelli e corde, orsacchiotti e bambole, là su una sediolina piccola piccola sedeva nella sua camicia bianca il signor presidente, e di fronte a lui su una sediolina ugualmente piccola sedeva quella francese, e così sedevano lì quei due amanti l'uno di fronte all'altra e si guardavano negli occhi. Su un tavolino tenevano posate le mani e una lucerna comune con una candela dentro illuminava quella casina. E il signor presidente si alzò e oscurò la finestrella, dovette chinarsi per uscire dalla casina e io gli porsi il cestino. Così alto era il nostro presidente, doveva chinarsi mentre io stavo dritto, tanto piccolino ero, e porsi quel cestino e lui mi disse «Grazie ragazzo, grazie». E poi quella sua camicia bianca si ritirò. La farfallina bianca l'aveva sciolta e sul frac inciampai mentre tornava indietro. E poi albeggiava quando poi uscì il sole dalla casina dei bambini e uscirono il signor presidente e quella dama, così, solo in sottoveste. Si trascinava dietro il vestito ormai cadente e il presidente portava la lucerna nella quale ardeva la candela, ma era solo un puntino contro il sole che era uscito. E poi il presidente si chinò e prese per una manica la giacca del frac e si trascinava dietro quella giacca piena di bruscoli e erba e fieno. Così camminavano sognanti uno accanto all'altra e ambedue sorridevano, beati. E io li guardavo e a un tratto avvertii che fare il cameriere non è una cosa così semplice, che ci sono camerieri e camerieri, ma che io ero un cameriere che aveva servito con discrezione il presidente e dovevo rispettare tutto questo, proprio come per tutta la vita di questo aveva vissuto quel famoso cameriere di Zdenek che aveva servito nel circolo dei nobili l'arciduca Ferdinando d'Este. E dopo il presidente partì con un'automobile e quella dama partì con una seconda automobile e con la terza non partì nessuno. Quell'invisibile terzo cliente per il quale era stata ordinata questa festa, per il quale avevamo apparecchiato, per il quale il capo aveva anche messo in conto il cibo e la stanza nella quale quel terzo non aveva dormito. Quando venne il caldo di luglio Il capo non passava più di stanza in stanza e nella sala da pranzo, ma stava nella propria stanza, in una specie di frigorifero dove la temperatura non doveva essere superiore ai 20 gradi. Ma nonostante non si facesse vedere, nonostante non passasse per i sentieri del parco, ciò nonostante, era come se ci vedesse e fosse onnipotente. Serviva e dava ordini di vieti col fischietto, e a me sembrava che con quel fischietto dicesse più che con la parola. Quella volta da noi abitavano 4 stranieri provenienti da un qualche luogo della Bolivia e avevano portato con sé una misteriosa valigetta che sorvegliavano come le pupille degli occhi, dormendoci addirittura insieme. Tutti portavano vestiti neri, cappelli neri, baffi neri spioventi e portavano anche guanti neri e sorvegliavano col modo la valigia. Era nera anch'essa e somigliava come loro a una piccola bara. Addio gioiose spensieratezze delle nostre compagnie notturne. Tuttavia dovevano pagare molto bene se il capo li aveva presi. Era una specialità sua e in generale di questo locale che se qualcuno alloggiava da noi pagava una zuppa o una minestra d'aglio e le schiacciatine di patate e un bicchiere di latte, esattamente come se mangiasse ostriche e gamberetti e ci bevesse sopra anche il trocken. E la stessa cosa con l'alloggio. Se faceva un pisolino fino al mattino su un divano, doveva pagare di sopra un'intera suite, e questo faceva parte dei pregi della nostra casa, dell'hotel La Quiete. E io volevo sempre sapere che cosa tenevano in quella valigia, finché una volta, quando il capo di quella nera compagnia tornò, era un ebreo, il signor Salomon, venne a sapere da Zdenek che quel signor Salomon aveva contatti con Praga, con l'arcivescovo in persona, e che gli chiedeva per le vie diplomatiche di consacrare la statuetta d'oro del Bambino di Praga, il Gesù Bambino di Praga, che era popolarissimo nell'America del Sud, così tanto che milioni di indios portavano quel bambino Gesù al collo su una catenella, che là circolava una graziosa leggenda sul fatto che Praga fosse la più bella città del mondo, che Gesù vi era andato a scuola, e perciò volevano che l'arcivescovo di Praga in persona consacrasse il Gesù Bambino di Praga, il quale pesava 6 chilogrammi ed era tutto d'oro. Da quel momento non vivemmo d'altro se non di quella solenne consacrazione. Non era una cosa così semplice. Il giorno dopo venne la polizia praghese e lo stesso comandante del reparto informò i boliviani che di quel Gesù Bambino già si sapeva nella malavita praghese e che anzi c'era un gruppo di polacchi che volevano rubare quel bambino. E così si consigliarono e alla fine decisero che la cosa migliore sarebbe stata nascondere fino all'ultimo il vero Gesù Bambino e far fare a spese della Repubblica Boliviana un altro Gesù Bambino, soltanto dorato in superficie, e portare questo Gesù Bambino fino all'ultimo momento con sé, perché se fosse stata commessa una rapina, allora che rubino, si impadroniscano piuttosto di questo Gesù Bambino falso che di quello vero. E subito il giorno dopo portarono un'altra valigetta, ugualmente nera, e quando l'aprirono era una tal bellezza che venne il capo stesso, uscì dalla propria stanza fresca per onorare il Gesù Bambino. E poi il signor Salomon prese a trattare con il concistoro arcivescovile, ma l'arcivescovo questo bambino non lo voleva consacrare, perché l'unico bambino stava a Praga, e ora di bambini ce ne sarebbero stati 2. Tutto questo lo venne a sapere da Zdenek, perché lui sapeva lo spagnolo e il tedesco, e lo stesso Zdenek era agitato. Per la prima volta vide Zdenek perdere la sua calma, finché il terzo giorno venne il signor Salomon e già nell'automobile stava in piedi e fin dalla stazione si vedeva che portava buone notizie. Rideva, agitava le braccia e tutti subito si sedettero insieme e il signor Salomon informò di aver avuto un buon suggerimento, che l'arcivescovo amava farsi fotografare, e così lui aveva proposto che l'intera cerimonia fosse filmata come appendice del cinegiornale Gaumont, e l'intera cerimonia sarebbe finita in tutto il mondo, dovunque ci fosse un cinematografo, dovunque ci sarebbe stato non soltanto l'arcivescovo, ma anche col Gesù Bambino e la cattedrale di San Vito, e così la chiesa, come aveva proposto giustamente il signor Salomon, la chiesa così avrebbe acquistato e allargato la propria popolarità. Quando venne il giorno della solenne consacrazione, si consigliarono tutta la notte, e così avvenne che io e Zdenek ricevemmo dalla polizia il compito di trasportare il vero Gesù Bambino, e in 3 automobili ci sarebbero stati i boliviani e il capo della polizia in frac, e avrebbero trasportato l'imitazione del Bambino di Praga, e io e Zdenek, con 3 ispettori travestiti da industriali, avremmo proceduto tacitamente come seguito. E fu un viaggio allegro. Io tenevo, come volle, il comandante del gruppo cattolico boliviano, il vero Gesù Bambino in grembo, e così partimmo dall'hotel La Quiete. Quegli ispettori erano dei signori allegri, quelli. Quando era aperto e accessibile al pubblico, il tesoro con i gioielli della corona, travestiti da diaconi, si aggiravano intorno all'altare laterale, facendo finta di pregare. Eppure tenevano, come Al Capone, i revolver sul petto, con una bretella. E quando ci fu l'intervallo, si fecero fotografare due volte, travestiti da prelati, con quei gioielli. Ne ridevano sempre quando lo ricordavano, e dovetti anche mostrar loro durante il viaggio quel bambino di Praga, e alla fine ci accordammo che ci saremmo fermati e che vicino a una siepe Zdenek ci avrebbe fatto una foto di gruppo col bambino di Praga, con la macchina fotografica di quegli agenti segreti travestiti da industriali. Prima di arrivare raccontarono come, quando c'era un funerale di Stato, avevano poi il compito, quando al funerale era presente il governo, che nessuno ci venisse senza autorizzazione, perché non riponesse nelle corone una bomba, che avevano una specie di picca, e prima tastavano quel verde e quella pompa di fiori con la picca, e come anche lì si facevano fotografare, ci mostrarono le foto nelle quali stavano in ginocchio intorno a un qualche catafalco, appoggiati a quella picca con la quale si cercava se le corone contenevano una bomba nascosta, o almeno una bombettina. E oggi, questa volta, sono come degli industriali, in frac, staranno in ginocchio, e in ginocchio strisceranno intorno a quel rito per poter sorvegliare da tre lati che nulla succeda al bambino di Praga. E così attraversammo Praga, e quando arrivammo al castello ci aspettavano quei boliviani, e il signor Salomon prese la valigetta e la portò per tutta la cattedrale, e tutto riluceva come in un matrimonio. L'organo tuonava, i prelati con le insegne facevano inchini al Gesù Bambino portato dal signor Salomon, la macchina da presa ronzava e riprendeva tutto, e poi ci fu la cerimonia. In realtà fu una specie di messa solenne, e in ginocchio il più pio era il signor Salomon, e noi poi in ginocchio ci avvicinavamo lentamente all'altare. Tutto tremolava di fiori e ori, e il coro cantava la messa solenne, e al suo culmine, quando il cameraman dette il segnale, fu consacrato il bambino di Praga. E così un semplice oggetto divenne devozionale, che consacrato dall'arcivescovo emetteva un potere sovrannaturale, aveva una grazia santificante. Quando finì la messa e l'arcivescovo andò in sacrestia, il signor Salomon, accompagnato dal vicario del capitolo, lo seguì, e ritornando infilò il portafoglio nella giacca. Certamente aveva dato un consistente assegno a nome del governo boliviano per il restauro della chiesa, oppure esiste una qualche tassa per la consacrazione. E poi vide anche il signor ambasciatore della Repubblica Boliviana, che portava il bambino di Praga per tutta la cattedrale. Di nuovo tutto con l'accompagnamento dell'organo e del coro, e di nuovo vennero le automobili e il bambino di Praga fu riposto. Noi però non portavamo più nulla, e tutti quanti insieme al signor ambasciatore tutto quel seguito arrivò all'hotel Steiner, e noi andammo da soli a casa per preparare ogni cosa per la festa notturna di commiato. Quando poi alle 10 arrivarono i boliviani, solo allora qui da noi tirarono al fiato. Qui cominciarono a bere champagne e cognac e ostriche e polli, e prima di mezzanotte arrivarono tre automobili e portarono delle ballerine di operetta, e proprio quella notte ci capitò tanto lavoro come mai prima. Tanta gente non l'avevamo mai avuta, e il capo della polizia, che qui conosceva ogni cosa, lasciò il falso Gesù Bambino di Praga sul caminetto nella camera nobile, e il vero Gesù Bambino, quello lo portò di nascosto nella casina dei bambini, e lì fra le bambole, le marionette, le corde e i tamburelli depose senza preoccupazioni il bambino di Praga, quello consacrato. Poi tutti bevvero, e le ballerine nude ballarono intorno al falso bambino di Praga, finché all'alba, quando venne il momento che l'ambasciatore tornasse alla propria residenza e i rappresentanti della Bolivia andassero all'aeroporto per far ritorno a casa, il capo della polizia portò il vero bambino di Praga e lo scambiò con il falso Gesù Bambino di Praga. Ma fortuna che il signor Salomon guardò dentro la valigetta, perché in quella festa disordinata il capo della polizia ci aveva messo dentro una bella bambola in costume dello slovacco, e così tutti corsero alla casina dei bambini bambini, lì fronte a un burello e tre bambole giaceva il bambino di Praga. Così presero rapidamente il bambino consacrato e al suo posto misero la bambola in costume dello slovacco e partirono per Praga. Ma il terzo giorno venimmo a sapere che i rappresentanti della Repubblica Boliviana dovettero ritardare il decollo dell'aereo perché per ingannare i ladri avevano lasciato il falso Gesù Bambino davanti all'ingresso dell'aeroporto. E una donna delle pulizie da prima aveva messo quel Gesù Bambino fra i bossi, ma quando in aereo i membri della delegazione guidata dal signor Salamon, quando lì aprirono in sicurezza la valigetta, trovarono che ciò che avevano con sé non era quel vero Gesù Bambino consacrato dall'arcivescovo, ma quello falso, quello non d'oro ma dorato in superficie. Tanto il vestitino era uguale. E così subito corsero e trovarono il vero Gesù Bambino nel momento in cui il custode stava accanto a lui e domandava ai presenti: «A chi appartiene questa valigetta qui?» E poiché nessuno si faceva avanti, lasciò stare lì sul marciapiede il bambino di Praga. E proprio in quel momento si precipitarono i rappresentanti boliviani e presero quella valigetta e, dopo averla soppesata, tirarono un sospiro di sollievo. Aprirono e videro che era il Gesù Bambino vero. E subito volarono con lui all'aereo per prendere il volo per Parigi e proseguire poi per il proprio paese col bambino di Praga, che secondo la leggenda india era andato a scuola a Praga, e Praga, secondo questa leggenda, è la più antica città del mondo. La mia fortuna è sempre stata di incontrare una qualche sfortuna. E così lasciai l'hotel La Quiete in pianto, perché il capo pensava che ero stato io a scambiare volutamente il bambino di Praga col falso Gesù Bambino, che l'avevo arraffato io per prendere quei 4 chili d'oro, sebbene non fossi stato io. E così arrivò con la stessa valigia un altro cameriere nuovo e io me ne andai a Praga. E là, subito in stazione, ebbi la fortuna di incontrare il signor Walden. Stava giusto andando alla sua zona, e lì con lui c'era quel suo facchino, quell'uomo triste che sulle spalle portava nella sacca le due macchine, la bilancia e il tavolinetto per tagliare il salame. E lei mi scrisse una lettera per l'hotel Parigi, e io mi congedai di nuovo da lui e in qualche modo mi voleva bene. Mi accarezzava e continuava a dirmi: «Poverino, sta su, sei piccolo, da piccolo che sei, poverino, dai che da qualche parte arriverai, verrò a trovarti», diceva, e io stavo lì, e a lungo lo salutai mentre partiva. Il treno ormai se n'era andato da tempo, e io mi ritrovai di nuovo davanti a un'avventura. D'altra parte all'hotel La Quiete io ormai avevo paura. Era cominciata così, che avevo visto come quel garzone lui aveva una gatta che aspettava soltanto che tornasse da quel suo strano lavoraccio, oppure aspettava in cortile e guardava come spaccava la legna per essere visto dai nostri clienti. E quella gatta, per quel garzone, era tutto. Dormiva con lei, e ora dietro a quella gatta aveva cominciato ad andare un gatto. E quella gatta smiagolava e non tornava a casa, e il nostro garzone sbiancava tutto, la cercava dappertutto, si voltava continuamente per vedere se c'era quella sua Mila. Infatti a questo nostro garzone piaceva parlare da solo, e ogni volta che gli passavo accanto sentivo in che modo l'incredibile era diventato realtà. E così da quei suoi monologhi avevo saputo che era stato in galera, che con un'accetta aveva fatto a fette una guardia che andava a letto con sua moglie, e la moglie l'aveva tartassata con una corda a tal punto che l'avevano dovuta portare in ospedale, e così aveva preso 5 anni e stava dentro con un criminale di Zizkov che aveva mandato la bambina a prendere la birra, e con la bambina tornando aveva perduto il resto di 50 corone. Così quell'uomo si infuriò e mise le mani della figlioletta su un ceppo e gliele mozzò. E questa era stata la prima volta che l'incredibile era diventato realtà. Il secondo carcerato era poi un uomo che aveva beccato la moglie insieme a un viaggiatore e che con l'accetta aveva ammazzato la moglie, le aveva tagliato gli organi sessuali, e il viaggiatore, sotto la minaccia di essere ammazzato con l'accetta, dovette mangiare quegli organi, ma quel viaggiatore per l'orrore ne morì e quell'assassino si costituì, e così l'incredibile diventò realtà per la seconda volta, e la terza volta era lui stesso. In che modo l'incredibile era diventato realtà, aveva tanta fiducia nella moglie che quando la vide con quella guardia, con l'accetta spaccò una spalla all'uomo, ma quella guardia gli sparò una gamba, e così il nostro garzone prese 5 anni affinché l'incredibile diventasse realtà. E una volta il gatto venne direttamente dalla gatta del garzone, e lui quel gatto lo bloccò con un mattone al muro, e con l'accetta gli spezzò la schiena, e la gatta cominciò a piagnucolare sul proprio gatto, ma il nostro garzone bloccò quel gatto dentro una finestrella chiusa da una rete così bene che quello ci mise 2 giorni a crepare, e fece così giusto la stessa fine di quella guardia, e la gatta poi la cacciò, e la gatta sfiorava i muri, ma in casa non poteva più entrare, e poi si perse. Probabilmente il garzone ammazzò anche lei, perché lui era davvero delicatino e sensibile, e quindi suscettibile, e per questo affrontava ogni cosa subito con l'accetta, sia la moglie che la gatta, perché era terribilmente geloso sia della guardia che del gatto, e in tribunale rimpianse di non aver spaccato la guardia con tutto l'elmo la testa invece della spalla, perché quella guardia stava nel letto di sua moglie con l'elmo, il cinturone e la pistola. E soprattutto quel garzone si inventò e disse al capo che io volevo rubare quel Gesù bambino di Praga, che avevo in testa soltanto come arricchirmi rapidamente a costo di un crimine. E il capo si spaventò, perché il garzone, quel che diceva lui, quelle erano parole sante, e inoltre mai nessuno di noi si sarebbe permesso nulla, perché il garzone aveva tanta forza quanto 5 adulti. E poi quasi ogni pomeriggio colsi il garzone che sedeva nella casupola dei bambini e ci faceva delle cose. Forse giocava con le bambole e gli orsacchiotti, non l'ho mai capito, e neppure mi sono sforzato. E lui un giorno mi disse che non gli sarebbe piaciuto che io entrassi ancora una volta nella cameretta dei bambini, come mi aveva visto fare una volta con Zdenek, e aggiunse che l'incredibile sarebbe potuto diventare realtà per la 4ª volta. E me lo fece vedere col caso del gatto, che con la schiena spaccata aveva sofferto proprio accanto alla mia stanzetta 2 giorni. E il garzone ogni volta che passavo di lì mi ricordava, indicando la mummia di quel gatto, che fine avrebbero fatto tutti quelli che ai suoi occhi, con 2 dita indicò i propri occhi, avrebbero peccato. E insomma, se non altro per il fatto che giocavo con le sue bambole, per questo mi avrebbe certamente non proprio ammazzato sul posto, ma quasi ammazzato, così da morire lungamente come quel gatto che, sebbene non avesse nessuna colpa, andava dietro alla sua gatta. E poi... Adesso la stazione capì quanto mi ero incretinito in 6 mesi all'hotel La Quiete. I capitreno fischiavano, i viaggiatori salivano al proprio posto, i capitreno col fischietto davano il segnale dal capomovimento, e io correvo da un conduttore all'altro e domandavo «Comanda!» E quando il capotreno fischiava, se era tutto pronto, se avevano già chiuso le porte e così via, correvo anche da lui e domandavo rispettosamente «Comanda!» E il treno portava via il signor Walden. E io attraversavo gli incroci di Praga e per 2 volte mi accadde che il vigile che dirigeva il traffico all'incrocio fischiò in modo così penetrante che corsi da lui e poggiai la valigia sui piedi e domandai «Comanda!». E così continuai a camminare per le vie finché giunsi all'Hotel Parigi. Vi basta? Con questo oggi finisco. Fausto Paravidino ha letto «Ho servito il re d'Inghilterra» di Bumil Rabal, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.